perfetta notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Vi ricordate quella pubblicità in cui 15 anni fa usciva un personaggio con occhiali improbabili e diceva: potevamo stupirvi con effetti speciali? Oggi il ruolo del Partito Democratico è quello di non stupire con effetti speciali, è quello di stupire, in qualche modo di meravigliare l'opinione pubblica con gli effetti normali. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, a proposito di effetti normali annunciati e riconfermati da Matteo Renzi, l'amministratore delegato di FS Moretti, dopo le polemiche, lo sapete, di questi giorni sui stipendi dei manager pubblici, delle controllate dello Stato, eccetera, andrebbe volentieri a fare un lavoro, diciamo così, più normale. In futuro, in medio termine, vado a fare sicuramente il contadino, perché è la cosa che mi piace di più, coltivare le mie olive e così via. Insomma, andrebbe a fare il contadino, coltivare le sue olive. Scattano dal 1° aprile, che non è un pesce d'aprile, pare sia notizia accertata, i tagli agli stipendi dei manager pubblici. La retribuzione sarà decurtata del 25% per i vertici di FS, Poste, Eni, Enel, Cassa Depositi e Prestiti. Questo rispetto ai predecessori, però bisogna vedere se appunto scattano automaticamente, non è ancora chiaro per quelli che ci sono adesso. A proposito di tagli e di risparmi, e quindi in una parola di spending review, parleremo anche questa sera dei famosi o famigerati, secondo i punti di vista, cacciabombardieri F-35, e ne abbiamo parlato in parte già ieri, ma sarà ospite qui a Effetto Notte tra poco, tra circa una dozzina di minuti, il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi, quindi chiederemo a lui, insomma, di chiarirci un po' le idee su questo argomento. Intanto, mentre riflettete, mentre sapete che potete scrivere come sempre i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure sul i messaggi al 349-238-6666, vi racconto brevemente la giornata. Direzione PD, Guerini e Serracchiani, vice segretari, e Renzi annuncia per lunedì la riforma del Senato. Sul lavoro avverte: niente ultimatum. Il governatore della Banca d'Italia accusa: le rigidità di imprese e sindacati frenano lo sviluppo. Stipendi: da martedì scattano i tagli e compensi dei manager pubblici. Bollette: dal 1 aprile calo delle tariffe di luce e gas, l'asta dei BTP spinge al rialzo la borsa di Milano, la migliore in Europa. La crisi ucraina: Obama chiede a Mosca di ritirare le truppe ammassate al confine di Kiev, ma Mosca smentisce le operazioni militari. E poi Egitto, ancora cortei dei fratelli musulmani, uccisa una giovane giornalista. E partiamo quindi dalla direzione del PD oggi, dove Matteo Renzi ha annunciato la riforma del Senato per lunedì, ma ha parlato soprattutto di lavoro. Potrà anche essere migliorato, ma ci sono punti che rimangono intoccabili, come i contratti a termine e l'apprendistato. Aprendo la direzione del partito, Matteo Renzi scandisce quali sono le priorità del suo governo, tra queste il decreto lavoro, sul quale dice non accetto ultimatum, e chiarisce che si tratta di un unico pacchetto complessivo senza temi a piacere. Ma la minoranza non nasconde le critiche a un provvedimento che considera troppo a favore dell'impresa, poco rispondente ai bisogni dei lavoratori, soprattutto precari. Così Stefano Fassina. Se mi si dice che, siccome questo è un governo di compromesso, dobbiamo fare, per esigenze di compromesso politico con la destra, prendere il pacchetto lavoro della destra, ne discuto. Sono disponibile alla mediazione politica, non sono disponibile alla umiliazione intellettuale. Parole che sembrano rispondere alla provocazione di Forza Italia. Il presidente dei deputati Brunetta questa mattina ha infatti annunciato che il gruppo voterà sì al decreto, così come è arrivato dal Consiglio dei Ministri, perché il decreto Poletti, dice, è il decreto Berlusconi sul lavoro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E altro tema, vi dicevo, di cui si discute ancora, è l'acquisto dei caccia F-35, progetto iniziato più di 10 anni fa e aereo che viene costruito anche in Italia. Obama viene in Italia perché si è preoccupato delle nostre riduzioni di spese militari degli F-35. Così Beppe Grillo attacca il governo Renzi, che frena sul taglio all'acquisto degli F-35 americani dopo il faccia a faccia a Roma tra il premier e il presidente Obama. In occasione della cerimonia per l'anniversario della fondazione dell'aeronautica militare, il ministro della difesa Roberta Pinotti rassicura i vertici delle forze armate: state sereni, il governo, quando parla della necessità che l'Italia continui a svolgere il suo ruolo per la sicurezza nel mondo, non può fare un passo indietro. spending review non significa togliere l'essenziale, ma tagliare gli sprechi, continua il ministro aggiungendo: io dico no ad un sistema d'arma o ad un aereo che diventa cattivo. Che la maggioranza sia intenzionata a procedere all'acquisto di tutti i 90 caccia sembra confermato dalle parole alla 7 del capogruppo del PD alla Camera, Roberto Speranza, secondo il quale gli F-35 non sono inutili. L'Italia è un grande paese, non è che può permettersi di non avere un sistema di difesa efficace. Nel Mediterraneo si giocano partite importanti sul piano internazionale, noi non possiamo dedicarci a questa impresa immaginando di non avere un sistema d'armi efficace. Il no all'acquisto dei caccia arriva da SEL, che chiede di utilizzare i soldi per gli F-35 a favore dell'occupazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come vi ho detto prima, quindi vi ricordo che tra poco a Fetto Notte ci sarà sugli F-35 il sottosegretario alla difesa, salvo imprevisti, il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi. Nel frattempo si vendono le auto blu, si tratta di un provvedimento simbolico. Matteo Renzi, questo l'ha ribadito anche oggi alla direzione del PD, non si risolve chiaramente il bilancio dello Stato, ma rimettersi a posto è fare il nostro dovere. Ma come sta andando questa asta online delle macchine? Le auto blu, un successone. A meno di 24 ore da quando si è aperta l'asta, il Tesoro avrebbe già guadagnato oltre 200.000 euro per la prima tranche di 25 auto dell'interno messe all'incanto. E le auto sono quasi tutte sopra i 100.000 chilometri, tante sfiorano i 200.000. I valori sono molto superiori ai reali prezzi di mercato. Per ora la più quotata, una BMW 525 del 2009 con 140.000 chilometri, è a oltre 18.000 euro. Le offerte sono 56. Quella con più offerte 89 e un Alfa 166 del 2007. Ancora nessuna offerta invece per la Tesis del 2007 con base d'asta 5.700 euro. Intanto il governo ha deciso di introdurre lo strumento dell'asta preapprovata, cioè la creazione di un elenco preventivo di offerenti ai quali è permesso di partecipare all'asta, nel quale si può entrare con un contatto preliminare via mail. Al termine della prima asta mancano ancora 9 giorni e chi ha vinto o perso un'asta su eBay sa però che tutto può succedere anche negli ultimi minuti, anzi, negli ultimi secondi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fate presto dunque, veniamo alle considerazioni del Centro Studi di Confindustria. Il servizio del nostro inviato a Bari. Se il paese vuole uscire dalla crisi lasciando alle spalle anni di bassa crescita, non ha scelta, deve puntare sui propri talenti, scommettere sulla conoscenza. Questa è la ricetta che il Centro Studi di Confindustria lancia dal convegno biennale. L'istruzione come strada per cambiare la condizione sociale dell'individuo, come strumento per arrivare a condizioni di vita e di lavoro migliori. Su questo l'Italia è indietro, spiega il direttore del Centro Studi di Confindustria, Paolazzi. E questa è una delle debolezze strutturali che frenano lo sviluppo del paese da molto tempo. E appunto le carenze di capitale umano. Carenze si sono rivelate ancor più marcate in presenza delle sfide delle nuove tecnologie, della globalizzazione, dell'immigrazione, dell'invecchiamento della popolazione. L'ascensore sociale in Italia continua a restare pressoché bloccato. Povertà economica e povertà di conoscenza sono strettamente legate, spiega la ricerca di Confindustria. Anello debole del sistema la scuola media e il collo di bottiglia nella transizione tra scuola e lavoro. I più penalizzati in IT, i giovani che non studiano, non lavorano e non si formano, oltre 2 milioni. Scommettere sull'istruzione, ricorda allora Confindustria, fa bene alla società e all'economia. L'aumento in 10 anni del grado di istruzione italiano a livello dei paesi più avanzati innalzerebbe il PIL fino al 15% in termini reali, ossia 234 miliardi con un guadagno di 3.900 euro per abitante. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari. E oggi il governatore di Banca Italia ha attaccato la rigidità, dice, di imprese e sindacati. I problemi odierni dell'Italia sono molto simili a quelli che si potevano osservare al termine del governatorato Carli. Lacci e lacciuoli, intesi come rigidità legislative, burocratiche, corporative, imprenditoriali, sindacali, sono sempre la remora principale dello sviluppo del nostro paese. Sceglie l'aula magna dell'Università Luiss il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, per rimettere al centro del dibattito politico i sindacati, inseriti fra le cause dell'immobilismo del paese. Il tema, già sollevato dal premier Matteo Renzi, scatena le sigle confederali, la replica del segretario della CGIL Susanna Camusso. Il governatore della Banca d'Italia, richiamando la figura di Carli, ha riprodotto un vecchio concetto che era quello dei lacci e dei lacciuoli, che se non erro è esattamente la stagione in cui poi il paese ha cominciato a disinvestire sul lavoro, a precarizzarlo. Durissima anche la posizione del segretario della CISL Raffaele Bonanni, parole a vanvera, dice: certe autorità stanno diventando gli untori del populismo italiano, discutere è normale, spiega in invece il ministro del lavoro Giuliano Poletti, annunciando da Bari che il governo difenderà il Jobs Act in Parlamento. D'accordo con Visco, Poletti spiega. Lo sappiamo che l'Italia ha qualche problema di freno, adesso proviamo a toglierli, insomma. Abbiamo cominciato e vediamo se funziona. Francesco De Remigis, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Occupiamoci adesso di bollette, perché da martedì 1 aprile calano i prezzi di luce e gas rispettivamente, per la luce dell'1,1% e del gas del 3,8%. Secondo l'autorità per l'energia e il gas, il risparmio medio annuo a famiglia è di 52 euro. Il prezzo del metano è calato in un anno di circa l'11%. Paolo Panceri ha sentito Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, che spiega i motivi della riduzione delle tariffe. Nonostante la crisi ucraina, i mercati sembrano aver dato molto peso a quanto accaduto e le minacce di interruzione, perché i prezzi del gas in Europa sono scesi vistosamente nelle ultime settimane e ciò ha permesso all'autorità di far ridurre subito i prezzi del gas anche nei prossimi mesi. Poi c'è stato l'effetto anche dei prezzi del gas, sono scesi anche per le centrali che usano il gas per fare elettricità. Il prezzo dell'elettricità infatti è a minimi storici mai conosciuti da quando abbiamo la borsa elettrica, cioè da 10 anni. Poi c'è da dire che le rinnovabili, con tutti gli sforzi che facciamo, stanno crescendo parecchio, è nevicato tantissimo, è piovuto tantissimo quest'inverno, c'è molto idroelettrico, tutto porta a caduta della domanda di gas, i prezzi sono scesi. E il 1 aprile sembrerebbe un giorno speciale per certi versi, nel senso che appunto calano un pochino le bollette, come avete sentito, e sempre dal 1 aprile scattano i tagli e i compensi per alcuni manager di Stato, ma sentiamo per chi. È stato approvato in dicembre il decreto ministeriale sugli stipendi dei manager delle società direttamente o indirettamente partecipate dal Tesoro, entrerà in vigore però il 1 aprile. Prevede un tetto di 311.000 euro lordi per la prima fascia, dell'80% di questa cifra per la seconda, del 50% per la terza. In realtà l'efficacia del provvedimento dovrebbe essere piuttosto scarsa, perché gran parte dei manager che supera questa soglia è alla guida di aziende che sono quotate o possono emettere obbligazioni, e queste sono sottratte al tetto vero e proprio. Il decreto ne ha però anche per loro. Le assemblee di queste società, le prossime in programma sono Eni, Enel e Finmeccanica, in fase di rinnovo del consiglio d'amministrazione sono obbligate a votare in merito ad una diminuzione degli stipendi del 25%, e il rappresentante del Tesoro in assemblea è obbligato a votare a favore. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un occhio alle borse, l'attesa per la riunione della BCE di settimana prossima con gli operatori che iniziano a scommettere sul nuovo taglio dei tassi, che oggi sono allo 0,25%, spinge le borse europee che mettono a segno una seduta in netto rialzo. La migliore è Milano con FTSE MIB che chiude a più 1,53%, spinto dalle performance record dei bancari. Su Milano ha inciso anche le aste record sui BTP, il cui rendimento sulla scadenza di 5 anni è sceso dell'1,88%. Spostiamoci adesso sulle notizie dall'estero. Jens Stoltenberg è il nuovo segretario generale della NATO. Sarà il norvegese Jens Stoltenberg il nuovo segretario generale della NATO. È stato nominato dai rappresentanti permanenti dei 28 paesi membri dell'organizzazione militare ed entrerà in carica il 1 ottobre. Stoltenberg è un ex primo ministro socialdemocratico di 55 anni. Da premier l'uomo politico ha inviato truppe in Afghanistan e in Libia. Negli ultimi giorni ha criticato aspramente la Russia e la sua decisione di intervenire negli affari ucraini, annettendo la penisola della Crimea. La nomina di Stoltenberg, che ha avuto la meglio sulla candidatura di Franco Frattini, l'ex ministro degli esteri del governo Berlusconi, giunge in un momento delicatissimo. Agli occhi di molti commentatori, la crisi ucraina ha ridato ragion d'essere all'organizzazione militare, mentre l'Europa è attraversata da tensioni internazionali come non mai negli ultimi 25 anni. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E ora in Egitto, dove una giovane giornalista è morta nel corso delle manifestazioni promorsi in un quartiere del Cairo. La donna è stata colpita da alcuni proiettili. Anche oggi, come succede spesso il venerdì negli ultimi mesi, nuove manifestazioni sono state organizzate dai fratelli musulmani in diverse città egiziane. Decine di persone sono state arrestate e in tutto il paese le vittime sono 3. La Russia nega di aver ammassato truppe al confine con l'Ucraina. Secondo varie fonti, invece, Mosca avrebbe radunato fino a 50.000 soldati e sarebbe pronta per un'offensiva su vasta scala. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che è arrivato a Riyadh in Arabia Saudita, ha chiesto oggi a Mosca di ritirare le truppe e di aprire dei negoziati diretti con il governo di Kiev e la comunità internazionale. E si sciopera anche in Germania. I piloti della Lufthansa saranno in sciopero infatti per 3 giorni, da mercoledì 2 a venerdì 4 aprile. Il sindacato Cockpit chiede aumenti salariali e un trattamento migliore a fine carriera. Dalla Gran Bretagna arriva questa notizia che scatta a mezzanotte di oggi il via libera in Inghilterra e Galles per la celebrazione dei primi matrimoni omosessuali con l'entrata in vigore della legge fortemente voluta dal premier britannico, il conservatore David Cameron. E poi per chiudere il calcio mondiale under 17, le italiane entrano nella storia, battono nei mondiali under 17 il Ghana ai quarti, ora devono affrontare nella semifinale la Spagna. Bene, direi che per il momento la giornata è questa. Tra poco parleremo per l'appunto degli F-35, quindi se avete i vostri commenti anche su altri temi ci sono sempre due canali per voi, la pagina Facebook di Effetto Note oppure gli sms al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Vedo tra i vari messaggi questo di un ascoltatore o ascoltatrice: non si firma a proposito degli 80 euro che Renzi vuole dare in busta paga a chi guadagna i 1500 euro, dice va bene, e a chi non guadagna nemmeno gli 80 come pensa di intervenire? Si parlava di questo sussidio universale, ma quando appunto verrà presentato definitivamente, penso, questo Jobs Act, qualcosa in più si capirà. Tra pochissimo il primo ospite, però vi ricordo in breve quali sono state le notizie più importanti di oggi. Renzi accelera sulle riforme, nessun ultimatum sul lavoro, dice vado avanti, e lunedì ci sarà il disegno di legge per la riforma del Senato e del titolo quinto. Governatore di Banca Italia Visco dice rigidità imprese e sindacati frenano lo sviluppo, e il ministro dell'economia Padoan dice non bisogna buttare i sacrifici fatti sin qui, bisogna cambiare l'agenda politica dell'Europa. Stipendi, da martedì scattano i tagli ai compensi dei manager pubblici, le bollette dal 1 aprile ci sarà una riduzione di quelle di luce e gas. E poi per la crisi ucraina Obama chiede a Mosca di ritirare le truppe ammassate al confine di Kiev, ma Mosca smentisce l'operazione militare. E con piacere che saluto il sottosegretario Domenico Rossi, sottosegretario della Difesa. Buonasera, benvenuto a Effetto Notte. Buonasera a lei e anche ai nostri ascoltatori. Allora, il sottosegretario Rossi è stato generale del Corpo d'Armata dell'Esercito Italiano, ha ricoperto la carica di sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, uno dei massimi esperti e autore di numerosi provvedimenti normativi del personale del comparto difesa e sicurezza, comprese riforme storiche nel settore come l'abolizione della leva, quindi molti di voi uomini saranno grati, immagino, al sottosegretario Rossi, che ve lo siete evitato, e l'accesso alle donne nelle forze armate, quindi una misura di parità, di equità, le donne sono libere di scegliere di poter andare nelle forze armate. In tutto questo, sottosegretario Rossi, però andiamo invece sull'argomento caldo di questi momenti, gli F-35, no? Allora, Obama, che ci ha appena lasciati questa mattina da Roma, è partito, ha detto ci sono spese militari irriducibili, cioè è stato molto risoluto su questa questione dei possibili tagli, spending review che possano colpire la difesa, in particolare gli F-35. Poi ha detto il gap tra le spese della difesa fatte dagli Stati Uniti e quelle fatte dall'Unione Europea è un po' troppo, dice, ognuno deve portare il proprio fardello. Ma oggi la ministra Pinotti della difesa ha detto, vi rassicuro sui tagli ai militari, state sereni, che è un po' anche quello che dice spesso Renzi, non so se bisogna preoccuparsi quando uno dice state sereni, insomma. Sottosegretario Rossi, allora ci faccia capire questa vicenda degli F-35. Ma guardi, se mi consente, sì. Lo state sereni del ministro Pinotti ai militari era relativo a state sereni in quanto qualsiasi decisione verrà presa nel contesto di un'analisi globale delle esigenze del paese e quindi delle esigenze delle forze armate. Non si può ridurre il discorso sulla sicurezza di un paese agli F-35, perché non solo sarebbe riduttivo, ma sarebbe anche un diversivo rispetto alla vera realtà del problema. Ecco perché noi riteniamo che occorra andare dopo tanto tempo e al contrario di altri paesi che lo fanno periodicamente verso la stesura di un libro bianco che possa individuare quali sono le esigenze reali di questo paese, o meglio le minacce, gli impegni internazionali, e poi da lì far discendere le reali esigenze. Pertanto solo da questa analisi si potrà effettivamente dire quanti F-35 servono o meno e come gli F-35, un'analisi che poi ci consenta la stessa precisione su tutti i sistemi d'arma che al momento sono pianificati per le forze armate, ovviamente non in un anno ma in un arco di tempo temporale che in genere è di 10-15 anni per i programmi più grandi. Sottosegretario Rossi, però le faccio sentire un momento chi, diciamo, ha attaccato con più durezza questa questione degli F-35 e il fatto che secondo qualcuno si cambia idea velocemente sulle cose, che è il leader del Movimento 5 Stelle Grillo. Le faccio sentire proprio un breve passaggio. Obama viene in Italia, va dal Papa per farsi due foto, viene qua perché si è preoccupato delle nostre riduzioni di spese militari degli F-35, viene qua a parlare questo, e Napolitano subito va in televisione a dire bisogna spendere di meno, la spending review, un momento, aspettiamo, non bisogna risparmiare su tutto, dice così. Viene a vendersi il suo gas di scisto che ne ha scoperto che ne ha per 100 anni, dove il più grande giacimento oggi al mondo, uno dei più grandi al mondo di gas, ce l'ha Israele. Viene qua a contrabbandare la sua economia e noi tutti zitti, tutti niente, tutte robe così. Insomma, sottosegretario Rossi, per Grillo, ma non solo, perché ho visto anche qualcuno del PD oggi che diceva, insomma, è bastata la presenza e diciamo l'intimazione da parte di Obama per far cambiare idea, quindi la difesa ecopatriarca del PD, per esempio, oggi l'aveva detto. Certo. Sì. Guardi, io posso, innanzitutto ritengo ovviamente che è facile parlare per spot televisivi o radiovisivi, è molto più difficile evidentemente portare dei discorsi che siano dei discorsi di carattere programmatici e dei discorsi che partono da un'analisi seria del problema. Io le posso dire che quello che non c'è stato nessun cambiamento di rotta a seguito dei colloqui con il presidente Obama, in quanto possono andare a vedere le dichiarazioni del ministro Pinotti di qualche giorno fa, sono esattamente le stesse dichiarazioni che ha rilasciato ieri e ha rilasciato oggi in occasione della festa aeronautica. In sostanza la linea della difesa è quella di dire: noi vogliamo fare un'analisi effettiva e compiuta delle reali esigenze sulla base di quelle che possono essere le minacce e gli accordi internazionali, e quello che risulterà da questa analisi che noi faremo attraverso il libro bianco potrebbero anche essere delle riduzioni maggiori o inferiori a quelle che oggi è possibile ipotizzare. Solo un conto è ipotizzare delle riduzioni attraverso una palla di vetro e un conto è ipotizzare le stesse riduzioni attraverso un'analisi. Mi sembra che tutti quanti possiamo condividere che è meglio farlo attraverso un'analisi seria che dia al Paese, da un lato, un bilancio della difesa sopportabile, ma dall'altro lato anche la certezza che la sicurezza è assicurata. Benissimo, quindi lei dice: prima facciamo questo libro bianco, capiamo veramente quali sono le esigenze e di difesa e di risparmio, poi capiamo cosa fare. Ma se lei le chiedo scusa se prego, la interrompo. Prego. Il libro bianco non significa demandare alle calende greche questa decisione, ma significa rimandare di 5-6 mesi il tempo occorrente per portare a compimento questa analisi. Visto che Renzi punta sulla velocità, anche su questo immagino che sarete veloci. Però, certo. Sottosegretario Rossi, ci aiuti a capire anche, gli F-35 in parte si producono, già si producono in Italia, mi pare a Cameri, in Piemonte? Sì, ma guardi, diciamo così, questo aereo è un aereo che verrà costruito attraverso degli assemblaggi che avvengono in vari paesi. Per l'Italia a Cameri, che si avvia o si avvierà a seconda delle decisioni che verranno poi confermate o ridotte nei numeri, ma probabilmente, ripeto, alla termine del libro bianco, assemblerà non solo gli F-35 per quanto riguarda l'Italia, ma anche per altri paesi europei, e in particolare Cameri assemblerà le ali di questo aereo. Ma noi voglio dire, visto che lei appunto è stato sotto capo di Stato Maggiore dell'Esercito, sottosegretario Rossi, cioè a noi economicamente, al di là di quello che poi si deciderà col libro bianco, si valuterà, ma al momento a noi conviene questo business, diciamo, che parte dall'America, sono vari ad assemblare i pezzi, noi ne dovremmo comprare 90 e ognuno costa 85 milioni di dollari, è vero? Guardi, innanzitutto, poiché alcune volte noi abbiamo, diciamo, Sono state date delle informazioni su come se la riduzione di questo programma comportasse un immediato risparmio sulla spesa pubblica, ad esempio del 2014. È evidente invece che questo è un programma che si sviluppa lungo 15 anni, quindi quando si parla di cifre totali tipo 10-15 miliardi, dobbiamo pensare alle stesse risorse spalmate lungo un arco di tempo che va da oggi fino al 2030. Questo significa che ogni anno avrà nell'ambito del bilancio della difesa uno stanziamento per il numero di aerei che quell'anno riusciva ad assemblare o meglio a costruire. I costi ovviamente degli aerei sono determinati anche dal numero degli aerei che verranno presi. Lei sa che la difesa in maniera autonoma si è già ridotta da 120 a 90 aerei, sì. E questo ad esempio ha comportato o potrebbe comportare la lievitazione dei costi del singolo aereo. Quindi diciamo che il costo effettivo si potrà determinare una volta che abbiamo effettivamente deciso quanti F-35 acquistare. Benissimo, io sottosegretario Rossi la ringrazio molto e allora aspettiamo questo libro bianco per capire di più. Io la ringrazio e posso sicuramente impegnarmi a lavorare insieme a tutti i collaboratori del Ministero della Difesa, ma affinché soprattutto questo libro bianco non diventi un'elaborazione solamente nostra, ma ci sia fatto a più mani e in particolare da persone esterne alla difesa, e in modo tale che possa essere poi condiviso dall'opinione pubblica e dal Parlamento e diventi effettivamente la linea guida per il concepimento e la realizzazione di forze armate moderne, efficaci e che assicurano la sicurezza che questo Paese ha bisogno. E allora non posso che augurarle buon lavoro, sottosegretario Rossi. Grazie mille. Grazie. No, buonasera. Grazie. Bene. Vi siete fatti un'idea, ci sono sempre i messaggi per voi o la pagina Facebook di Effetto Notte, però c'è un momento di pubblicità, come sempre, ci ritroviamo tra poco con altri temi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Prima abbiamo avuto chiacchierato con il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi, ex generale dell'esercito, che ha detto qual è la posizione dello Stato, del governo in questo momento sugli F-35, ha parlato di questo libro bianco che si attende di scrivere entro i prossimi 5 mesi. Vedo alcuni messaggi critici, c'è Max che dice F-35 ennesimo segnale di servilismo agli Stati Uniti, nonché un ammasso di difetti per quello che dobbiamo farci, meglio l'Eurofighter europeo, insomma appunto questi sono punti di vista, speriamo che nel diciamo più veloce tempo possibile si faccia chiarezza. Ho tentato appunto col sottosegretario Rossi, ha detto qual è la posizione del governo in questo momento e che intendono anche su questa cosa valutare non soltanto con gli addetti ai lavori all'interno del ministero, all'interno del governo, ma anche con personalità esterne. Adesso però, come personalità, tra poco coinvolgerei Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 ore, ma prima vi ricordo quali sono state le notizie della giornata. E partiamo dalla direzione PD, Guerini e Serracchiani sono vice segretari, Renzi annuncia per lunedì la riforma del Senato e sul lavoro avverte niente ultimatum. Il governatore della Banca d'Italia accusa le rigidità di imprese e sindacati frenano lo sviluppo. Stipendi da martedì scattano i tagli e compensi dei manager pubblici e sempre dal 1 aprile calo delle tariffe di luce e gas. E poi la crisi ucraina, Obama chiede a Mosca di ritirare le truppe ammassate ai confini di Kiev, ma Mosca smentisce le operazioni militari. Alberto Rioli, bentornato. Buonasera a tutti. Ciao Alberto. Senti, ti faccio subito sentire che cosa ha detto Padoan o Padoan, perché ancora non si è capito, essendo un cognome veneto, pare che sia Padoan, ma lui preferisce essere chiamato Padoan. Tu che hai avuto a che fare con il ministro, hai sentito qualcuno? Sì, noi lo chiamiamo Padoan. Padoan, chiamiamolo Padoan allora. Padoan, sentiamo, ha detto di non buttare gli sforzi fatti sinora, i sacrifici, sentiamolo. La fase di aggiustamento fiscale che intanto è continuato e ha prodotto risultati estremamente importanti che bisogna difendere. Non possiamo assolutamente permetterci di buttare al vento gli sforzi enormi di consolidamento fiscale che sono stati fatti. Insomma, intendeva dire teniamo saldo il timone, non buttiamo all'aria, non con sforamenti, cose varie, richieste, eccetera. Esatto. Esatto, più parla in pubblico il ministro dell'economia e più si differenzia nel tono e nel contenuto dei messaggi rispetto agli annunci che fa Renzi, a dire la verità. Ai, quindi... Nel senso che lui fa il mestiere del ministro dell'economia, cioè il ministro dell'economia è quello che sa benissimo quali sono effettivamente i margini di scostamento, i margini di flessibilità che si possono negoziare in Europa, ma sa benissimo che ci sono i trattati, che c'è il fiscal compact, che c'è un vincolo costituzionale del pareggio di bilancio, che non sono scherzi, non si possono aggirare con le battute. Renzi giustamente però mette in campo l'altra metà della strategia della politica economica, cioè a dire sto facendo le riforme, sto velocizzando il cambiamento, è esso stesso un elemento, come ha detto oggi in direzione PD, è esso stesso, soprattutto nel rispetto del timing molto serrato, un elemento che aumenta la credibilità del nostro paese e quindi ci consentirà di attrarre investimenti, di avere più fiducia presso gli operatori internazionali, presso gli organismi internazionali e di poter andare a negoziare a testa alta magari delle modalità di flessibilità nel bilancio europeo che comunque ci sarebbero, ci sono e ci sono state, soprattutto per interlocutori forti come erano state Francia e Germania quando hanno sforato il 3%. E hanno detto in Europa non ci rompete le scatole. Ah, non ci rompete le scatole. Senti, a proposito di politica europea, sentiamo anche un'altra affermazione di Padoan di oggi. Io penso che sia il momento di dire che bisogna cambiare la direzione dell'agenda di politica economica in Europa. Non solo perché suona bene, ma soprattutto perché mi sembra quasi la conseguenza logica di quello che è successo da quando la crisi globale è diventata crisi europea. Possiamo divertirci a mettere una data d'inizio, molti la mettono quando è scoppiata la crisi greca, forse è cominciata prima. Insomma, quindi parla di cambiare la politica europea, questo è diciamo in sintonia con Renzi? No, assolutamente. Ah. Non volevo accentuare una differenziazione strategica, dicevo una differenziazione nei toni perché Padoan è già tre volte che accentua l'idea che comunque il rigore, sostanzialmente quello che andava sotto la vulgata del rigore, va però rispettato, va mantenuto, va consolidato. Ha anche spiegato che appunto nelle sedi europee, congiuntamente con gli altri, la politica economica europea deve cambiare. Questo è un intendimento di alcune famiglie politiche dentro l'Europa che per l'appunto adesso sono in competizione in vista delle europee e su cui effettivamente si sta giocando la campagna elettorale. Senti, dal ministro dell'economia Padoan passiamo al governatore della Banca d'Italia Visco, che si è tirato addosso gli strali dei sindacati di Camusso e Bonanni oggi, perché ha detto le rigidità di imprese, quindi questo includeva anche le imprese e sindacati frenano lo sviluppo, creano immobilismo e la segretaria della CGIL Camusso Musso ha detto mi sembra un riproporre ricette che hanno già mostrato il loro fallimento. E Bonanni della CISL dice ci sono alte autorità che spesso parlano a vanvera e stanno diventando un problema, stanno gridando allo sfascio e stanno diventando gli untori del populismo italiano. Eh sì, Bonanni soprattutto è andato giù molto pesante dopo che ha sentito il governatore della Banca d'Italia. È vero che il nostro paese è un paese malato di burocratismi, di ingessamenti, di palude, se così vogliamo usare un termine che ha usato Renzi in una recentissima intervista. Il problema però è identificare bene qual è la palude che ci ha portato all'immobilismo, alla glaciazione e alla depressione in cui siamo finiti. Non mi sembra che si possa fare di tutta erba un fascio dicendo sindacati, imprese, politica, burocrazia, cioè tutti sostanzialmente, per carità. È molto renziana come affermazione, perché abbiamo già detto altre volte, la nuova ideologia renziana è quella della cosiddetta disintermediazione, cioè lui si rivolge direttamente ai cittadini e agli elettori, saltando la strutturazione dei corpi intermedi, le associazioni, le organizzazioni, e va bene, e può anche essere una strategia. Però, ripeto, non tutta la palude è responsabilità di tutti, diciamo così. La palude principale è quella della burocrazia pubblico-politica, diciamo così. Quella è la grande zavorra del paese, cioè il lavoro improduttivo, il lavoro clientelare, l'intermediazione da sottogoverno, la creazione di entità economiche che non fanno niente ma se non dare stipendi a chi sostanzialmente non le meriterebbe. Ecco, quello è il problema dell'Italia, vero. Il resto bisogna riconoscere alle parti sociali, alle imprese e ai sindacati che spesso hanno svolto un'operazione di supplenza molto forte anche all'inazione e all'inattività della politica, oramai data da un po' di tempo, perché effettivamente penso per esempio agli accordi concertativi 92-93 che hanno salvato il paese, poi la cosa è degenerata, però insomma non è del tutto imputabile alle imprese, ai sindacati, soprattutto alle loro associazioni, l'immobilismo italiano. Ci sono tanti fattori, non ultimo quelli di un'allocazione degli investimenti pubblici sbagliati, tutti votati a un errore nel concepire lo Stato sociale, perché sono stati buttati i soldi, tutti buttati, sono stati destinati i denari soprattutto sulla parte previdenziale assistenziale, ma non su quella della formazione, non su quella dell'organizzazione di ammortizzatori sociali universali. Ecco, c'è stato uno squilibrio nel corso del tempo che ha tanti padri, diciamo così. Senti, però dicevi quindi immobilismo, dicevamo, mentre Renzi, da tutta l'area almeno così, di non voler essere immobile, ha già annunciato oggi in direzione PD che lunedì il governo approverà la riforma del Senato. Sentiamolo. Abbiamo deciso di affrontare la legge elettorale dopo che il Senato avrà affrontato il disegno di legge costituzionale sulla riforma del titolo quinto del Senato e l'abolizione del CNEL. Questo progetto di legge disegno di legge costituzionale sarà presentato approvato dal governo lunedì. Quindi, come si dice più volte in questi giorni, Renzi accelera sulle riforme, Alberto Orioli. Sì, sì, esatto. Lui ha una tempistica, un cronoprogramma, si direbbe preciso, e lo sta più o meno mettendo in pratica, salvo una settimana, 10 giorni, che sono niente rispetto all'immobilismo ventennale sulle riforme istituzionali, questo va detto. E lo attende una prova forte però al Senato, lo attende sia sul versante della riforma costituzionale, ma soprattutto sia sul versante del decreto lavoro. Appunto, ecco, probabilmente questo è uno degli scogli più grossi che potrebbe incontrare. Ha detto oggi: nessun ultimatum sul lavoro, sentiamo anche questo e poi lo commentiamo, Alberto. Leggo discussioni e anche toni un po' da ultimatum, che capisco poco, sui temi del mondo del lavoro. Vorrei essere molto chiaro, non è una parte a piacere come quelle, dice, uno va volontario all'interrogazione, dice poi a piacere c'è questa domanda, posso portarla o non portarla, non è così, cioè il pacchetto sta insieme, perché è un pacchetto che naturalmente tenta di recuperare alcune raccomandazioni che noi abbiamo ricevuto in questi anni a partire dall'Unione Europea, che ci ha richiamato ad alcune regole, ma che prima dell'Unione Europea ci hanno raccontato i nostri amici, in alcuni casi i nostri compagni di partito che fanno gli imprenditori e che magari fanno, o che semplicemente fanno i fornai. Provate a fare il fornaio e fate un contratto di apprendistato con le regole che c'erano prima. Allora, l'apprendistato e il contratto a termine sono due punti intoccabili. Si possono migliorare, come sempre, per carità, discutere, quello che volete, ma sono due punti intoccabili di questo discorso. Alberto Orioli, appunto dicevamo che questo è un terreno scivoloso, già molti all'interno del PD, qualcuno dice la minoranza, ha già annunciato che dovrà essere cambiato il Jobs Act perché crea più precarietà, dal tuo punto di vista? No, in realtà c'è un grosso equivoco ideologico su questo, nel senso che quella è una minima parte del Jobs Act ed è una cosa che servirà molto a consolidare e a creare un minimo di entusiasmo verso la possibilità di assumere nel momento in cui stanno modificandosi anche i segnali dell'economia reale. Toccarlo significa tornare indietro, perché il provvedimento è molto semplice, quello sui contratti a termine che durano 36 mesi, che sono rinnovabili 8 volte e che non hanno bisogno della clausola, e poi quello dell'apprendistato con l'aliquota di obbligo di conferma ribassata, quindi è tutto qua, voglio dire. Poi c'è un po' di soldi destinati ai contratti di solidarietà, non è un articolato particolarmente complesso, quindi le mediazioni politiche sono davvero difficili, perché vuol dire che o fai così o fai il contrario. Fare il contrario diventerebbe un modo per sfiduciare l'azione del governo Renzi, quindi io credo che su questo davvero il governo andrà a uno showdown, e sarà molto importante, perché questo è un tratto utile all'economia reale, a rilanciare lo sviluppo, a creare ricchezza, a creare PIL e quindi a far ripartire il paese, perché le imprese hanno già detto che su quel tipo di strumento si sentono molto più confidenti nell'organizzare le assunzioni, quindi sarebbe un passo indietro. È anche vero però che la maggioranza in direzione è molto ben controllata dai renziani, ma la configurazione in Parlamento del PD è quasi opposta, diciamo così, e lì è importante capire come funzionerà l'alleanza che c'è tra la sinistra del partito e la CGIL, che già ha espresso forti riserve su questo provvedimento, quindi è un test molto importante per la tenuta del governo Renzi, cioè per la sua tenuta e capacità effettivamente riformista. Grazie Alberto Rioli. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro. Ciao Alberto. Ci sono aggiornamenti per chi viaggia e c'è sempre anche la pagina Facebook Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Vorrei farvi sentire un pochino di Crozza, Crozza delle Meraviglie, che mi sa che sta parlando di Europa, sta cantando di Europa. Se venissero qui i turisti e Pompei non crollasse più, saremmo happy. Se i servizi che ci hanno a Oslo ce li avessimo a Cefalù. Ragazzi, ricordatevi una cosa. Oh, grazie, ringraziate. Oh, oh, questa Europa noi ci dobbiamo stare solo se ci rende happy, perché se non ci rende happy noi non siamo happy, se noi non siamo happy ce ne dobbiamo andare. E il presidente Napolitano sta imitando, Saremo. Se lo subito 3% mi salisse a 5 o più su, se la tua carina... L'audio un po' particolare, sento un po' male. Adesso invece allora parliamo di un altro spettacolo, ma che riguarda l'Europa, uno spettacolo su crisi Europa. È proprio vero che l'idea di unire l'Europa non appassiona più gli europei, o il problema è che nessuno ha mai provato a raccontarcela con passione l'Europa? Due giovani autori italiani e il gruppo di artisti e ricercatori che si stanno costruendo intorno a questi autori non hanno dubbi, è venuto il momento di restituire agli europei le emozioni confiscate loro da 60 anni di retoriche nazionali che ci hanno impedito, dice, di sentirci direttamente coinvolti nella storia più rilevante di cui facciamo parte. Europa 24 notte. Verso le europee. Questa storia d'amore è la nostra. Consapevoli e inconsapevoli, volenti e nolenti, la stiamo vivendo, così come fecero i nostri nonni e i nostri genitori. È la storia di un amore tormentato. Stiamo vivendo una crisi drammatica, esistenziale. Si stanno ridefinendo gli assetti di potere del mondo. Chi rimarrà al centro del mondo starà bene, chi andrà alla periferia starà male. Si sta creando un nuovo sistema mondiale di potere multipolare con l'ascesa dei BRIC. Il problema è se l'Europa sarà uno dei poli di potere a livello mondiale oppure no. Lasciamo stare, dai, non rifacciamo un letto ormai disfatto. Non è un segreto, dai, lo sanno tutti. E tu sei buffa quando cerchi di nasconderlo alla gente che ci vede litigare per poi sera amarti meglio, amore mio. Amorose, lo voglio anch'io. E qui nasce il patto sulla moneta, la moneta unica che abbiamo adesso noi nelle tasche. Nasce allora, e nasce l'Unione Europea, allora, ormai a 12 all'epoca, e sapendo di diventare almeno 15. Non si ha il coraggio di fare subito l'unione politica, d'emblem. Si mette in programma di cedere un pezzo di potere statuale alla moneta e si dichiara che si farà altrettanto, piano piano, negli altri settori, politica economica, estera e di difesa, che sono i settori decisivi. Di fatto però un compromesso. Tra il 92 e oggi si sono susseguite non a caso revisioni dei trattati. Tanto più necessarie queste revisioni dei trattati perché l'Unione nel frattempo si allargava fino a ricomprendere gli stati europei orientali. Come funzionare davvero uniti a 28 o anche di più prossimamente? A maggior ragione come completare l'unificazione a 28? Domanda pressante, perché per tutti noi unirsi è sempre più una questione di sopravvivenza. Vorrei ritrovarti, vorrei farsi via nel letto di Lucia. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Ecco, eccoci qua, quindi abbiamo sentito pure uno spettacolo sull'Europa, un po' ironico naturalmente. Guardavo un messaggio di Silvia da Roma che dice F-35, allora molto meglio a questo punto gli F-24, i modelli per il pagamento dell'IMU. Beh, insomma, non ha tutti torti, un po' di satira si fa anche con i vostri messaggi. Vedevo poi una delle notizie di oggi, che in realtà vi racconto meglio adesso, tra quelle tutte stellate, le agenzie, no? Con tutti i segni per dire che sono una certa rilevanza, è una decisione della CEI, dei Vescovi. I Vescovi non sono pubblici ufficiali e dunque non sono obbligati a denunciare all'autorità giudiziaria casi di abusi sessuali nei confronti dei minori che sono di loro conoscenza. La Conferenza Episcopale Italiana, appunto la CEI, conferma così il suo orientamento nella lotta alla pedofilia, cioè i Vescovi non sono pubblici ufficiali e dunque non sono obbligati a denunciare all'autorità giudiziaria gli abusi sessuali sui minori. Importante e fondamentale, si legge nelle linee guida pubblicate oggi, alla protezione dei minori, e in questa direzione si richiamano i Vescovi a un dovere morale di contribuire al bene comune, ma la collaborazione con l'autorità civile, dice la CEI, definita importante in questo documento, resta a discrezione dei singoli, quindi non sono obbligati, secondo questo documento della CEI, i Vescovi a denunciare i casi di abusi sessuali sui minori. Sapete quanto è stata grande di anni questa polemica che è emersa soprattutto negli ultimi tempi sulla pedofilia anche appunto all'interno della Chiesa. Adesso però mi sposterei sul tempo che attendiamo e con le parole anche che aspettiamo dal colonnello Mario Giuliacci. Caro colonnello. Ciao Roberta, buonasera. È vero che è tornata la primavera, siamo praticamente un ponte verso l'estate a questo punto, colonnello. Beh, possiamo, certo, possiamo illuderci. Dire maliziosamente che già siamo a primavera, ma so che la gente quando dice primavera intende dire giornate belle e soleggiate con tepori veramente gradevoli. Beh, sarà così domani, dopodomani e anche lunedì, perché le ultime resistenze del maltempo sono state oggi fiaccate su quelle regioni dove ancora il maltempo resisteva, per dire Marche, Abruzzo, Molise e al sud. Quindi da domani bel tempo su tutta l'Italia. Temperature in rialzo, domenica addirittura, oltre che il bel tempo, temperature che al centro nord potranno superare quasi ovunque i 19-20 gradi, quindi un assaggio ancora di veri tepori primaverili. Sarà ancora così anche lunedì, ma poi martedì e mercoledì arrivano delle nuvole, non porteranno piogge, però già renderanno i cieli più grigi, soprattutto sulle regioni di nord-ovest e regioni tirreniche. E poi probabilmente, ma adesso questo potremmo appurarlo successivamente, giovedì potrebbero arrivare anche le piogge a partire dalle regioni di nord-ovest. Però cosa posso dire? Vediamo il bicchiere mezzo pieno, contentiamoci di queste 3 o 4 giorni di tempo splendido e quindi godiamocelo. Poi per il resto, diciamo, potremmo dire carpe diem, insomma, ecco. Bicchiere mezzo pieno di pioggia, mi sembra di capire, per la prossima settimana. Scusa, Giuliacci. Diciamo, lunedì è bellissimo. Martedì, mercoledì arrivano delle nuvole ma senza piogge sulle regioni di nord-ovest e tirreniche, ancora bello su quelle di nord-est adriatiche, Sicilia. Poi giovedì potrebbero arrivare anche le piogge, però mancano ancora 6 giorni, facciamo gli scongiuri, quindi forse riusciamo a tenerle lontane. Con le temperature arriviamo ai 35 gradi, che sai che è la mia temperatura, sì, ideale. Sì? A luglio ho calcolato di sì. Abbiamo ancora un po' da aspettare. Senti, ma si stabilizzano ormai, non torna più il vero freddo, no? Colonnello, no, Giuliacci. Il vero freddo, sono scarsissime le probabilità, però ti ricordavo anche l'altra volta, attenzione, che ha nevicato per esempio a Milano, sì, ad aprile, 21 d'aprile, quindi non è una possibilità da escludere al 100%, ma diciamo una probabilità che potrebbe avere l'1% di probabilità di verificarsi, no? Grazie colonnello Mario Giuliacci, ti ringrazio, buon tempo a te comunque. Ciao, sia. Ciao Roberta, che grazie. Buonasera. E ricordo meteogiuliacci.it per tutti gli altri dettagli, per tutte le altre informazioni che volete sul tempo. Dobbiamo chiudere adesso, vogliamo sentirci qualche secondo di Crozza? Chiedo a Peter Bescapè alla parte tecnica, sentiamo cosa dice. Dunque il tema della messa era la corruzione nella politica. Sta parlando di una recente messa. Cioè una messa sembrava una retata, quella fare. Cioè, perché. Beh, e su questo credo che ci dobbiamo lasciare per il momento, poi sapete che ritorno ancora un pochino per ricordarvi le notizie principali della giornata. Dopo.